La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:29 primi. Siamo in lieve anticipo, meno male. Ogni tanto qualche minuto in più. In questo venerdì 21 aprile, in diretta dal sud di Milano. Come sempre, vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo per proporre temi, commenti, domande o spunti per candidarvi direttamente a sollevare un problema intervenendo in trasmissione, la versione di Oscar, @24.it. Ci occupiamo oggi, con due ospiti successivi, della vicenda che avete trovato con vasta eco sui giornali stamattina, e cioè di questo colpo di mano nel codice degli appalti che ha tagliato in maniera del tutto inaspettata facoltà penetranti attribuite all'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, quando la cosa è diventata nota, insurrezione da parte dei relatori sul codice degli appalti in Parlamento, dicendo quella è una norma che il Parlamento ha voluto proprio in ragione degli scandali continui in materia di appalti, corruzione degli appalti, e quindi per questo il Parlamento ha molto insistito perché all'autorità anticorruzione siano consentite delle facoltà che in caso di sospetti dal primo esame sui documenti di appalti affidano all'autorità anticorruzione una procedura straordinaria, extragiudiziale per così dire, che però può portare rapidamente all'adozione in 60 giorni di misure in solido nei confronti del dirigente responsabile, oltre poi naturalmente a automatica segnalazione all'autorità inquirente delle eventuali fattispecie penali su cui indagare e aprire il procedimento. Esattamente questa è la norma che spariva dal codice degli appalti. Insurrezione, perché quella norma l'ha voluta il Parlamento. Chi è stato a farla sparire in Consiglio dei Ministri? Ecco, poco dopo, qualche ora dopo, Gentiloni dice, il Presidente del Consiglio, no, un incidente, verrà immediatamente riparato. Resta la domanda a questo punto: che paese è quello in cui approfondiremo meglio adesso il va e vieni del testo sul codice degli appalti, perché la questione nasce da molti rilievi fatti dal Consiglio di Stato sulla sua stesura precedente, un ripassaggio quindi in Parlamento, perché si tratta di una norma delegata, di una legge delega, per questo il Parlamento reinterviene, a quel punto nasce la norma, in Consiglio dei Ministri la norma delegata risparisce. Com'è possibile che una cosa di questa importanza scompare in Consiglio dei Ministri e a noi non è consentito capire chi l'ha fatta sparire? Che cosa dobbiamo pensare di un procedimento normativo? Stiamo parlando di norme delegate, di una legge delega su cui il Parlamento vota, poi è il governo che deve tradurre la delega in norme attuative, il Parlamento a quel punto rivede il testo, eccetera, eccetera. Il Consiglio di Stato interviene. Come è possibile che su un aspetto così importante una manina ignota fa sparire una facoltà di questo tipo così importante e a quel punto la cosa si risolve dicendoci: ma vabbè, ma correggiamo? No, la domanda è: ci dovete dire com'è possibile, perché altrimenti, perdonatemi, chi come il sottoscritto da molti anni è convinto che in realtà il più del procedimento normativo italiano avvenga non da parte dei parlamentari, non da parte dei soggetti identificati dalla Costituzione a questo scopo, naturalmente per la declarazione d'urgenza il governo, altrimenti il Parlamento per quella ordinaria, bensì avvenga ad opera di burocrati pubblici, che sono i vertici senza i quali nessun ministro è in grado di stendere una norma. In materia di diritto tributario ci pensa l'Agenzia delle Entrate, i capi di gabinetto tra loro considerano aspetti che al politico sfuggono totalmente, magari cassano una norma semplicemente, come in questo caso con una riga anodina che in Consiglio dei Ministri naturalmente nessuno avrà nemmeno notato e capito. Eccolo, cosa ci dice del procedimento di stesura e approvazione delle norme questa vicenda? Domanda numero uno, quindi da far chiarire dai tecnici, per questo ne abbiamo scelti. Domanda numero due. Siccome il segnale è politico nei confronti di Cantone, io stesso ho detto che da parte della politica identificare l'autorità anticorruzione era una foglia di fico, perché era evidente che c'era un enorme problema, la corruzione continuava, i tempi della magistratura sono lunghi e così via rispetto alle procedure di destinazione degli appalti, e a quel punto la politica ha creato un nuovo livello di controlli che si aggiunge a tutti quelli preesistenti. Detto tutto questo, è chiaro che uno può avere dei sospetti politici, eh? E magari può pensare che in Consiglio dei Ministri ci sia qualcuno che regola qualche partita nei confronti di Cantone. Cantone che è intervenuto anche nella vicenda Consip, che come sapete riguarda direttamente. Abbiamo appreso poi con interventi manipolativi del tutto impropri di un ufficiale dei carabinieri affidatogli il compito di polizia giudiziaria da parte del trasferimento, del delicato passaggio dalla Procura di Napoli a quella di Roma degli atti, per cui sembrava che dalle intercettazioni fosse stato acclarato che c'erano stati incontri anche con il padre dell'ex presidente del Consiglio per truccare gare alla Consip. Cantone interviene anche nella Consip in quel caso, perché fa un'audizione con Marroni e così via. È un segnale su questo? È qualcuno che regola, manda un segnale a Cantone anche su questo? Certo, questa è una domanda politica a cui è difficile avere risposta, ma è ovvio che a un osservatore come me viene immediatamente in mente, visto che quella norma è stata cassata al Consiglio dei Ministri, cioè a Palazzo Chigi, è un pezzo di PD che manda un segnale a Cantone dicendo chi te l'ha fatto fare di mettere le mani anche alla Consip? Non lo so, improprio, però devo ammettere che molti ascoltatori mi hanno scritto esattamente di questo. Partiamo però dalla prima domanda, cerchiamo di capire come è possibile che su aspetti così delicati il Consiglio dei Ministri, pare che si debba dire a sua insaputa, cassi una norma di questa importanza. Allora, su questo primo aspetto abbiamo con noi Vital Bazzolini, che ricordate ha spesso, facciamo riferimento a lei per questioni di diritto amministrativo, per valutazioni ex ante dei provvedimenti che in Italia non si fanno mai, è una giurista che lavora in un'autorità di vigilanza, qui parla a titolo personale, però esercita la sua penna con una grande competenza e anche con un certo taglio a volte critico e polemico che a me garba molto. Grazie a Vital Bazzolini per aver accettato il mio invito, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio Oscar, buon pomeriggio a tutti. Come possiamo spiegare a un pubblico non versato e non esperto in diritto amministrativo, parlamentare, in procedure legislative, ciò che è avvenuto e che ho tentato di riassumere prima? È difficilmente spiegabile perché manca una tracciatura, vogliamo usare questo termine, quello che si usa normalmente per i prodotti alimentari, manca una tracciatura dei provvedimenti, diciamo, normativi. E in questo caso manca, in particolare, ne mancano alcune parti, manca alcune parti di questo procedimento. Allora, iniziamo a dire il correttivo del codice degli appalti è stato adottato anch'esso, diciamo, in forza della delega, per cui era stato adottato il primo provvedimento lo scorso anno. Bene hanno fatto a correggere, c'erano molti profili da correggere. Il governo ha esercitato questa delega e diciamo prodotto questo testo, approvato dal Consiglio dei Ministri, successivamente sottoposto a una alla conferenza unificata, sottoposto a un nuovo parere del Consiglio di Stato, sottoposto a una commissione parlamentare, pubblicato sul sito del Senato, quindi sul sito prima di Camera e Senato, e io posso dire che la norma che è stata eliminata, ecco, dell'eliminazione di quella norma non c'è traccia. Vale a dire, sono andata proprio a ripercorrere tutte le diverse fasi di elaborazione del procedimento. Diciamo che nella norma la cui eliminazione viene ora contestata, si dava contezza in tutto questo procedimento, semplicemente perché era stato corretto il numero di un articolo per un mero errore materiale, quindi si diceva questo articolo, il secondo comma dell'articolo 211 viene corretto perché è sfuggita questa cosa. Dunque non se ne sa niente. Il Consiglio di Stato parimenti nel parere che rende sul correttivo del codice appalti dice questa norma non è stata toccata rispetto alla versione precedente, dunque manca un passaggio. il passaggio, quello finale, quello che tutti hanno rilevato. Ma c'è un'altra cosa che voglio farti notare, vale a dire. Qui la questione di trasparenza del procedimento normativo si lega molto, quindi la questione metodologica si lega anche molto alla questione di merito, quindi alla sostanza. Questa norma che è stata eliminata prevedeva un potere veramente molto invasivo da parte dell'ANAC, il potere di emanare una raccomandazione vincolante, e già l'ANAC è un organo di vigilanza, qui invece le si dava questo potere di emanare una raccomandazione vincolante alle pubbliche amministrazioni ad agire in autotutela laddove avesse ravvisato dei vizi dell'atto in una procedura di appalto. E laddove l'amministrazione non avesse ottemperato a questa raccomandazione dell'ANAC, l'ANAC poteva irrogare una sanzione amministrativa ed altre sanzioni in materia di reputazione, sulla reputazione dell'amministrazione inadempiente. Il Consiglio di Stato era stato nella prima fase, quindi un anno fa, quando aveva espresso il parere sul codice degli appalti, estremamente critico su questa norma, perché questa norma era stata spacciata, consentimi il termine, come una norma analoga che c'è per l'antitrust, quindi introducendo, si era detto, una forma di controllo collaborativo. Di fatto era una norma molto diversa che dava ad ANAC poteri molto più incisivi e al limite della legittimità, in quanto l'antitrust, per esempio, allora qui si diceva l'ANAC può individuare un atto come legittimo e la pubblica amministrazione deve agire e sanarlo. I poteri che ha l'antitrust sono dei poteri molto meno invasivi, vale a dire emana un parere, dice chiaramente quali sono i profili per i quali ritiene sia stata violata la legge e a quel punto se la pubblica amministrazione non si adegua, non ottempera, è l'antitrust che agisce davanti al giudice amministrativo. Invece nel caso dell'ANAC si ribaltava completamente la questione, perché era l'amministrazione che doveva agire di fronte al giudice per sostenere la legittimità del proprio operato, ed era questo quello che il Consiglio di Stato aveva rilevato come un potere veramente eccessivo. Dunque aveva invitato il governo a correggere la norma. Cosa ci saremmo aspettati? Ci saremmo aspettati che il governo nel correttivo si adeguasse a quanto aveva rilevato il Consiglio di Stato. E invece la norma scompare, cioè tout court non viene modificata, non viene adeguata a quella, i poteri non vengono adeguati a quelli dell'antitrust, come ho spiegato, dal Consiglio di Stato, viene eliminata. Dunque in fretta. Una norma che viene modificata richiede motivazioni, deve essere spiegata. Questa anche chiaramente ha maggior ragione nel caso in cui venga eliminata. Ma nell'eliminazione, non nella correzione, si vede proprio l'intento di non operare in maniera trasparente. Ecco, diciamo così. Chiaramente, essendo un blitz dell'ultimo momento, nella relazione sull'analisi di impatto, che devo dire, riconoscere ad onor del vero che in questo caso esatto, era stata fatta in maniera abbastanza un'eccezione, diciamolo, perché siccome la chiediamo sempre, no? Io e te, questa volta esatto, per rispetto alla norma che non c'è la relazione, c'era ed non è neanche fatta male. Non è fatta male, ma della norma chiaramente, siccome la norma fino a pochi giorni fa c'era, perché compare in tutti i testi, ovviamente sulla sua eliminazione nessuno ha fatto nessun commento. Nel Consiglio di Stato, nelle conferenze, nessuno, ecco, tantomeno la relazione AIR. Allora, io adesso ti faccio una domanda e capisco se tu non mi rispondi, però io faccio un altro mestiere rispetto al tuo. Tu sei una giurista che lavora in un'autorità di vigilanza, io sono un giornalista e quindi io naturalmente posso permettermi ipotesi e posso permettermi opinioni, anche se in questo caso non hanno una prova oggettiva. Poiché per una norma delegata, a fronte dei pareri che ha richiamato il Consiglio di Stato, alla rilettura, ad avere il coordinamento tecnico in mano, è, in questo caso, nel pre-Consiglio dei Ministri, l'ufficio che a Palazzo Chigi è ricoperto da Maria Elena Boschi, il sospetto viene forte. Qui non stiamo parlando di un provvedimento intraministeriale che implica competenze trasversali. Qui stiamo parlando di un provvedimento il cui coordinamento tecnico è a Palazzo Chigi. Allora, io non voglio sapere, perché non me lo diranno mai, il nome del dirigente o del funzionario tecnico, ma io so che la responsabilità politica di questo è di Maria Elena Boschi. È sbagliato il mio ragionamento? Il tuo ragionamento, allora, il Dipartimento Affari Giuridici e Legali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esattamente i compiti che tu hai esposto, vale a dire quello comunque di valutare l'atto normativo, di valutare tutti gli aspetti, anche quelli di patto, quelli che, come sai, cito spesso, ed è comunque, ha comunque la responsabilità giuridica tecnica dell'atto del governo. Anche perché ricordiamoci di un'altra cosa: quest'atto è stato anche sottoposto al parere della Commissione Lavori Pubblici, ma sono pareri non vincolanti. Non vincolanti, quindi è un atto di esclusiva paternità del governo e quindi del suo ufficio legislativo. Ecco, io ti ringrazio per l'approfondimento tecnico che ci hai dato e ti ringrazio anche per la risposta. Cari ascoltatori, chi vuole capire capisca, però. Le ipotesi sono due: o un funzionario dirigente che fa una cosa simile senza dirlo al sottosegretario Boschi, tenderei a escluderlo per una serie di ragioni, ma può anche avvenire, perché vedrete adesso nel proseguo della trasmissione che in realtà all'interno della pubblica amministrazione questa norma, non la sua correzione come chiedeva il Consiglio di Stato e come sarebbe stato opportuno e giusto fare, come ha ricordato Vital Bazzolini, ma il fatto che non ci sia più questa cosa, beh, c'è un pezzo di pubblica amministrazione che, con le ragioni che adesso le faremo esporre, ci dice: beh, tutto sommato è meglio così, a essere chiari. Però io escluderei che una norma di questa importanza, che ha suscitato l'immediata reazione di Cantone quando gli è arrivato il testo, ha preso il telefono e ha chiamato il Presidente del Consiglio che stava negli Stati Uniti a incontrare Trump per dirgli: ma che cacchio avete fatto? E Gentiloni ha dovuto dire: no, no, te lo ripristiniamo, eccetera. Allora, siccome è diventata immediatamente fior di politica questa faccenda, oggi non a caso trovate su una ricostruzione su Repubblica che dice: i tecnici della Boschi, due punti, c'era l'accordo di tutti, i ministri dicono non se n'è mai parlato in Consiglio dei Ministri. Come vedete, un bel giallo, ma la responsabilità politica sta a Maria Elena Boschi, punto. Ci sentiamo tra un minuto per sentire invece la voce di un presidente di un'associazione, di una figura fondamentale nelle autonomie, che dice: ma quella norma aveva creato un casino. Tra un minuto. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo parlando del giallo della norma sparita in Consiglio dei Ministri rispetto a questa facoltà straordinaria concessa all'ANAC di Raffaele Cantone, di cui non si riesce a capire chi l'ha fatta sparire. Poi Cantone chiama Gentiloni, i parlamentari insorgono perché ce l'abbiamo voluta noi, Gentiloni dice: metteremo tutto a posto. Chi è stato? Abbiamo tentato di farvi spiegare da Vital Bazzolini, giurista, i diversi passaggi a cui serve quella norma. La mia opinione è che la responsabilità politica comunque è in capo all'ufficio che è guidato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Il sospetto che sia un pezzo di PD contro un altro pezzo di PD, perché i parlamentari che insorgono sono anch'essi del PD in Parlamento, che manda un segnale a Cantone, a questo punto diventano, voglio dire, legittimi, non dico fondati, ma legittimi, a meno che Gentiloni ci dica e ci spiega di preciso chi, a chi apparteneva quella manina. Ma a fianco di tutto questo resta anche poi la sostanza della faccenda, perché quel potere straordinario concesso a una specie di foglio da fico istituzionale, perché questo è il motivo per cui la politica ha introdotto l'ANAC 2 anni e mezzo fa, in realtà stamattina, quando ne hanno parlato per la prima volta in trasmissione Attenti noi due insieme ad Alessandro Milan, ci ha chiamato un segretario comunale dicendo: sì, però guardate, adesso al di là della manina di chi è stato, parliamoci chiaro, io le posso testimoniare, ci ha detto quel segretario comunale, che la moltiplicazione di questi livelli di controllo determina paralisi, perché già ognuno di noi, prima di mettere una firma, deve pensarci un milione di volte rispetto a responsabilità in solido, civile, penale, eccetera, eccetera. Quando addirittura si aggiunge un ulteriore livello, questa era una facoltà straordinaria che consentiva di imporre sanzioni in 60 giorni al di là del procedimento penale, attribuiva all'ANAC, come avete sentito c'è qualche dubbio anche di legittimità, ma al di là di tutto farla sparire è un altro paio di maniche. Allora mi sono detto, sentiamo la presidente dell'associazione segretari comunali e provinciali, questa associazione si chiama Bighenzi perché è il nome appunto storicamente una figura di un segretario comunale che è una vittima della repressione nazifascista, quindi visto che ci avviciniamo anche al 25 aprile si chiama così, intestata appunto a un loro eroe civile e anche per l'Italia, e appunto è con noi Maria Concetta Giardina per farci capire se quella norma e i dubbi avanzati anche dal Consiglio di Stato, li abbiamo ricordati prima, faccia tirare un sospiro di sollievo, per così dire, a un pezzo dell'amministrazione pubblica italiana oppure no. Maria Concetta Giardina, che è poi in particolare segretario generale del comune di Lumezzane nella provincia di Brescia. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Giannino, buon pomeriggio agli ascoltatori. Ma prima una domanda, ma voi non dovevate sparire? Infatti, noi siamo un po' nel capo espiatorio. No, nella riforma della PA, dico, no? Non dovevate sparire. Certo, sì, ma infatti si abolivano perché le inefficienze del sistema ovviamente sono colpa vostra, no? Noi la legge 190 ci ha individuato, la legge anticorruzione, ci ha individuato come responsabili ex legge dell'anticorruzione, e noi avevamo visto anche con favore questa autorità, pensavamo di avere un sostegno, un supporto da questa autorità, perché nelle nostre realtà a volte si fa fatica a raccomandare la correttezza, certo. Non ci sono più controlli esterni, noi siamo soggetti a uno spoil system ampiamente discrezionale, la nostra figura negli ultimi anni è stata indebolita notevolmente. E quindi quando si è presentato Cantone l'indicazione, effettivamente l'attenzione alla legittimità, alla buona amministrazione ci aveva un po' rassicurato. Devo dire che poi un po' ci siamo invece trovati in una posizione diversa, ma cioè, nel senso che ci siamo visti sommersi da adempimenti, il piano anticorruzione, che per carità le intenzioni erano buone, perché io dico sempre non dovevano chiamarlo piano anticorruzione, dovevano chiamarlo piano di buona amministrazione, sì. Perché quello che noi possiamo fare seriamente, ragionevolmente, è presidiare l'organizzazione, verificare i processi, capire dove si annidano i malfunzionamenti e quindi la corruzione. Ma pensare di sconfiggere la corruzione con i nostri piani è un'utopia, non so neanche se... Apprezzo il surrealismo. ma perché noi lo viviamo tutti i giorni, e anche oggi, ieri quando è scattata la notizia della manina che ha cancellato... Sì. Io da manovale del diritto, perché tale mi definisco, quello che mi ha lasciato sorpreso è il fatto che di fronte a un correttivo che ha cercato di porre rimedio ad alcune incongruenze, si dà la lettura politica prima di quella giuridica. Adesso il Consiglio di Stato l'ha segnalato 3 volte, perché è vero, aveva già detto nella legge delega che questa norma, questo comma 2 dell'articolo 212 era un po' in contrasto con l'ordinamento. Sì. È intervenuto ancora una seconda volta quando è stato richiesto il parere sul potere di vigilanza dell'ANAC e ha raccomandato, ma anche sul correttivo ha ricordato, che ha segnalato che al governo c'era questa norma che mal si conciliava. Adesso non che io abbia tirato un sospiro di sollievo, no, perché no, questa no. Norma tra l'altro non è stata mai applicata. Esatto, non è ancora, ma no, ma perché teoria. Stiamo parlando di un testo che non è ancora vigente. Però oltretutto, il rischio che noi operatori viviamo è quello di trovarci in mezzo a un cortocircuito, allora, tra l'autorità indipendente e la magistratura. La magistratura. Perché è questo che sta succedendo. Sono d'accordo. Il Consiglio di Stato consiglia una cosa, l'ANAC ne dice un'altra, e noi in mezzo cosa facciamo? Esatto, ed è la stessa sensazione che ci ha restituito il suo collega stamattina. Sì, a sì. Questo punto le faccio una domanda in base alla sua esperienza, alla sua professionalità, al mestiere che svolge e ai principi dell'ordinamento a cui lei naturalmente ha giurato fedeltà. È ipotizzabile, perché io voglio raccontare ai nostri ascoltatori tutte le diverse ipotesi. C'è l'ipotesi della lettura politica? Sì. Può essere, naturalmente di questo la politica ci vorrebbe dire il Presidente del Consiglio, ma è ipotizzabile, alla luce di quello che ci ha detto, perché noi anche prima abbiamo spiegato i dubbi del Consiglio di Stato, è ipotizzabile che magari un funzionario o un dirigente del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, incaricato dal coordinamento dei testi, abbia per così dire valutato che fosse automatico, a fronte dei reiterati osservazioni del Consiglio di Stato, la decadenza in toto di quel comma che affidava quei poteri a, all'ANAC, senza in questo vedere una, un rilievo politico particolare, cioè io è ipotizzabile? Davvero, io ho dato questa lettura, quando poi i giornali hanno dato lettura politica sono rimasta sconcertata, perché io penso piuttosto questo, il Consiglio di Stato l'ha detto 3 volte, state attenti, questa norma crea un cortocircuito. Ma secondo lei a quel punto, visto che comunque stiamo parlando di una facoltà straordinaria, beh, lo sottolineiamo 7 volte, attribuita all'ANAC, è ipotizzabile, magari il funzionario o il dirigente ha fatto questo, ma tanto da non porre ai membri del Consiglio dei Ministri da parte del sottosegretario, dice, io vi segnalo che questa cosa la leviamo alla luce di quello che ci dice il Consiglio di Stato, perché i ministri dicono noi non ne abbiamo sentito parlare in Consiglio dei Ministri. Ma io sono molto lontana dalle stanze dei bottoni, perché sono in prima linea, quindi non so le dinamiche come avviene, però è anche vero che ultimamente sappiamo che i testi arrivano in Gazzetta Ufficiale dopo 20 giorni, quindi non si sa che io cosa qui volevo arrivare. Perché... io le dico che quando vado in consiglio comunale, bravissima, le mie delibere sono già scritte riga per riga, i miei consiglieri sanno cosa approvano, ecco, cosa succede aspetti, in consiglio dei ministri aspetti, io non lo so. Io se lei dice io gliele scrivo, non lei, nel senso che non è che lei ispira il contenuto, però gliele scrivo in maniera corretta e loro sanno cosa approvano, ci credo, perché altrimenti i suoi consiglieri chiamano e lo smentiscono. Quello che so con certezza è che, per esempio, il decreto legge, il cui testo, quello della manovrina correttiva, decreto legge omnibus, 64 articoli, anzi pare che siano 68 a stamattina, superfetati, in teoria approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, col cavolo che hanno approvato i 68 articoli che non c'erano, cari ascoltatori. Noi accettiamo decreti legge approvati formalmente in Consiglio dei Ministri, la cui stesura avviene settimane dopo. Ma vi rendete conto che è una cosa pazzesca? Voi direte, vabbè, i ministri si fidano. Ma cosa i ministri si fidano? Ecco cosa succede. Oggi noi ci troviamo di fronte alla norma di cui parliamo oggi, con ministri che dicono non ne ho mai sentito parlare in Consiglio dei Ministri, a doverci porre il problema. C'è un problema di legittimità? Sì, ve l'abbiamo ricordato. Il Consiglio di Stato chiedeva che venisse corretto, poi invece viene cassato. Ma chi l'ha cassato? Ma come in Consiglio dei Ministri possono emanare norme in cui da una parte ci dicono se ne è parlato, perché questo dice l'ufficio della Boschi, e dall'altra i ministri dicono no? Ecco, ma chi cavolo le scrive? Chi le prende queste decisioni? Allora, grazie anche a Maria Concetta Giardina e grazie a tutto il lavoro che per la legge fanno la straordinaria maggioranza dei suoi colleghi. Vi metto, dicono solo la straordinaria maggioranza perché come in tutti ci saranno le pecore nere, ma mica generalizzo. Però, cari ascoltatori, la ciccia è: ma chi scrive questi testi? O meglio, se succede un problema, Presidente del Consiglio, ce lo devi spiegare, non passare tutto in cavalleria. Continuate con questo bel dubbio a ascoltare Radio 24, appuntamento oggi cos'è? Venerdì? Sì, quindi con me, domani dalle 10 alle 12, con i conti della Belva, con Carlo Alberto Cannavale Caffè, Mario Seminerio e Reto Cifarelli, avremo con noi ospite straordinario in studio il capo delle Ferrovie dello Stato, Mazzoncini, e parleremo anche della Francia. A domani!